Focus Economia. Con Simone Spezia. Le 17, 8 minuti e 47 secondi. Buonasera gentili ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Di cosa parleremo oggi? Parleremo in apertura di trasmissione di materie prime e di petrolio, perché c'è ancora l'impatto posto naturalmente la grande tragedia che ha colpito il Giappone, c'è ancora l'impatto che sta avendo sui mercati delle materie prime la tragedia giapponese, e non solo, perché c'è anche la vicenda libica. Oggi il petrolio è calato lievemente su queste notizie arrivate da Tripoli, che, come vi ha riferito il GR, ha detto di essere intenzionata a bloccare l'offensiva verso i ribelli, e per il momento il mercato sembra crederci. Ma ci sono anche le tensioni in Yemen, non importante dal punto di vista della produzione del greggio, ma perché si trova su uno stretto dal quale passano ogni giorno circa 3 milioni di barili di petrolio sulle petroliere. E poi ci sono naturalmente anche le tensioni in Bahrain, anche se il Bahrain non è un grande produttore di petrolio, quindi da questo punto di vista non è così importante. Il Giappone invece è stato importante, quel che è successo in Giappone, al di là naturalmente della tragedia umana, per l'impatto che ha avuto sui prezzi delle materie prime agricole, che per la prima volta sono calati moltissimo, perché appunto Tokyo è tra i maggiori importatori di cereali del pianeta, se non il maggiore importatore di cereali del pianeta. Parleremo della vicenda Parmalat. Che cosa è successo? Che ieri i francesi di Lactalis hanno detto che si trovano a circa l'11% di Parmalat. C'è chi intravede una vera e propria offensiva francese verso l'Italia, a partire dall'acquisto di Bulgari. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, ne ha parlato Sebastiano Barisoni con l'amministratore delegato di Bulgari, Trapani, con l'acquisto di Bulgari da parte di Elvemash. C'è la questione Edison e la questione EDF, con EDF che potrebbe salire ancora in Edison, e adesso l'ipotesi che la cosiddetta italianità, della quale tanto avevamo parlato quando si è parlato di banche, quando si è parlato di Alitalia, la cosiddetta l'italianità di Parmalat possa non essere conservata. Su questo stanno succedendo delle cose proprio in queste ore. Si è appreso poco fa che l'ambasciatore francese in Italia, Jean-Marc de la Sablière, è stato ricevuto a Palazzo Chigi per un incontro con il ministro dell'economia Tremonti e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Letta, e è stato informato del fatto che il governo sta valutando la possibilità di adottare provvedimenti legislativi in questo senso, in sostanza a tutela delle imprese cosiddette strategiche. Tutto sta a vedere naturalmente se Parmalat rientri tra queste imprese strategiche. Parleremo naturalmente di Confcommercio. Oggi c'è stato il forum a Cernobbio, ci collegheremo con la nostra inviata. È iniziato il forum a Cernobbio, che si concluderà domani, tra l'altro, con lo stesso Tremonti, e sono emersi dei dati interessanti, al di là di tutte le dichiarazioni a margine su tutti gli argomenti che potete immaginare, da Parmalat al nucleare. Sono usciti dei dati interessanti dal lato dei consumi. Secondo Confcommercio ci sono mediamente 570 euro in meno a famiglia a partire dal 2007 a disposizione degli italiani per i consumi, e questo preoccupa naturalmente anche dal lato della crescita. Come sempre faremo il punto sui mercati. Oggi tutto sommato positivi: il FTSE MIB guadagna lo 0,36%, il FTSE All Share lo 0,39%. Ricordiamoci però, insomma, che i cali dei giorni scorsi sono stati piuttosto pesanti. Bene anche Parigi, che guadagna lo 0,74%, mentre New York va un pochino meglio: il Dow Jones guadagna lo 0,9%, il Nasdaq lo 0,35%. Da segnalare oggi l'andamento dell'euro sopra 1,41,48 contro dollaro. 349-238-6666 per i vostri sms. Le notizie in breve di questa giornata. Di materie prime tratteremo tra poco, iniziamo dall'oro però, iniziamo a darvi i dati di oggi. Dall'oro in crescita sui mercati asiatici a 1412,66 dollari, il rialzo è dello 0,6%, petrolio invece in lieve calo, a New York in apertura meno 0,4%. Per quanto riguarda il Giappone, oggi la borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo, più 2,72%, del resto la Bank of Japan ha deciso un'ulteriore iniezione di liquidità di 3.000 miliardi di yen, ossia 37 miliardi di dollari nel sistema finanziario del paese per calmare il mercato. E i paesi del G7 si sono riuniti e hanno deciso di attuare un intervento coordinato sui mercati valutari su richiesta delle autorità giapponesi in risposta ai recenti movimenti sul tasso di cambio dello yen associati ai tragici eventi in Giappone. In azione la Bundesbank, la Banca d'Italia, la Banca d'Inghilterra e quella di Francia, e yen in caduta libera dopo l'intervento G7 sui mercati. La divisa nipponica è arrivata ad accusare un calo del 3,1% contro il dollaro, in questo momento quota, e ve lo troviamo subito, 81 il dollaro contro lo yen, 81,09, quindi in ulteriore calo. Restando in Estremo Oriente, la Banca Centrale Cinese ha annunciato che aumenterà di 50 punti base il livello di riserve obbligatorie delle banche a partire dal 25 marzo. E andando invece negli Stati Uniti, c'è qualche notizia a partire dai dati diffusi da Wall Street Journal. Sono tornati i maxi bonus nel 2010, qualcosina avevamo già sentito circolare, però arriva la conferma. Per gli amministratori delegati delle 50 maggiori società americane, la crescita dei bonus è del 30,5%, il maggior aumento degli ultimi tre anni, per un valore di 126,1 milioni di dollari a fronte degli 83 milioni del 2009. La fonte è uno studio condotto da Hay Group per il Wall Street Journal. Una questione che interessa il mercato americano, un'agenzia appena battuta dall'agenzia di stampa Radio Corriere del Sole 24 Ore, la Federal Reserve ha completato una nuova serie di stress test sullo stato di salute e la tenuta a eventuali crisi delle 19 maggiori banche americane e ha spianato la strada per alcune di loro a un immediato incremento dei dividendi da pagare agli azionisti. Del resto, le banche statunitensi, e questa notizia di ieri, hanno restituito il 99% dei fondi ottenuti dal TARP, il Troubled Asset Relief Program, il piano salva banche approvato durante la crisi dall'ex segretario al Tesoro Henry Paulson. Le notizie dall'Italia, si diceva innanzitutto questa convocazione dell'ambasciatore francese Jean-Marc de la Sablière e anche le parole del ministro dell'economia Giulio Tremonti, che ha dichiarato di essere pronto con un provvedimento legislativo che potrebbe essere presentato in Consiglio dei Ministri nei prossimi giorni. Poi dati di Confcommercio, ci torneremo più avanti, intorno alle 17.45. Ciascun italiano dispone oggi per i consumi a parità di potere d'acquisto mediamente di 570 euro all'anno in meno rispetto al primo trimestre del 2007. Quindi mi correggo, mi sono sbagliato, avevo detto 570 euro a famiglia, mentre invece sono 570 ad italiano. Nel 2011, prevede Confcommercio, l'inflazione crescerà del 2,7%, il PIL dell'1%. L'altro grande fronte di ciò che compone il PIL, ossia il commercio estero, a gennaio 2011 il disavanzo commerciale peggiora ulteriormente raggiungendo quota 6,6 miliardi di euro e siamo in questo caso a dati dell'Istat naturalmente, si tratta del più alto deficit mensile a prezzi correnti che sia mai stato registrato, pesa sull'ampliamento naturalmente la componente energetica. E comunque le esportazioni sono aumentate del 25% rispetto all'anno prima e del 4,3% su dicembre 2010. Tra i singoli paesi da segnalare il boom dell'export verso gli Stati Uniti, più 65%, bene anche Russia più 44% e Spagna più 16%. dati anche sugli ordini all'industria. Gennaio in calo dello 0,3%, il dato su anno comunque positivo, più 17,5%. Ebbene, il fatturato in gennaio più 1,8% su mese, più 8 su anno. Da segnalare che oggi il mondo dell'industria perde anche un suo protagonista, quello che è stato un suo protagonista è morto a Lugano, Vittorio Ghidella, era malato da tempo, ha guidato la Fiat negli anni 80 con la carica di amministratore delegato, la Fiat Auto, al suo nome sono legati modelli come la Uno, la Croma, la Lancia Delta, la Lancia Tema, la Tipo e l'Auto Bianchi Y10, era nato a Vercelli nel 31, aveva lasciato il vertice Fiat nell'88 per contrasti con Cesare Romiti, allora presidente. L'altro tema di questi giorni e collegato alle vicende giapponesi è quello del nucleare. Parla tra gli altri oggi il ministro del welfare Maurizio Sacconi dopo tanti dubbi sollevati in queste ore, interpellato dalla nostra Paola Anania a margine appunto del forum della Confcommercio a Cernobbio così. Ha già parlato il governo all'unanimità, in tutto il mondo si riparte, come è ovvio e doveroso, dalla sicurezza e sono credo valutazioni che alla fine verranno fatte in una dimensione sovranazionale, cioè europea e anche globale. Così dall'altra parte l'opposizione ospite questa mattina del programma di Radio 24 24 Mattino, il segretario del PD Pierluigi Bersani torna appunto sulla questione nucleare, sulle dichiarazioni di alcuni esponenti dell'esecutivo in favore di una pausa di riflessione. Per adesso sono parole, ci sono degli atti in Parlamento, se si vuole essere coerenti si sospendono questi atti. Dopodiché io aggiungo che noi anche prima dei fatti giapponesi avevamo buone ragioni per contestare un piano nucleare che non ha fattibilità peraltro né sul piano economico né dal punto di vista della possibilità di essere accettato. Siamo un paese che non riesce ancora a fare un deposito di superficie per i rifiuti del vecchio nucleare, insomma, quindi fare cose difficili dovrebbe fare quelle facili. Dopo il Giappone è chiaro che c'è una riflessione generale da fare su questa tecnologia e quindi il governo, se intende fare questa riflessione, sospenda gli atti parlamentari, ad esempio quello sulla localizzazione. E a margine sempre del forum di Cernobbio che si è aperto oggi, il presidente di Confcommercio Sangalli, intervistato da Paolo Anania, sempre sul tema del nucleare, prudenza e auspica che vengano mantenute le agevolazioni per le rinnovabili. In questo momento certamente è più che sacrosanta, è legittima e doverosa avere una forte preoccupazione. Però ne approfitto per dire che noi ci auguriamo però che il governo rimetta gli incentivi sulle rinnovabili, in modo particolare sul fotovoltaico, perché questo rimettere gli incentivi consentirebbe innanzitutto di non far saltare gli investimenti, di far rispettare le ordinazioni e soprattutto di non mettere in pericolo migliaia e migliaia di imprese e soprattutto significherebbe anche incoraggiare le energie rinnovabili come punto di riferimento anche per un'energia pulita. :17:22:42, veniamo al primo tema di questa giornata. Vi ricordo il numero per intervenire in diretta, il 349-238-6666. Ci chiedete tra l'altro che fine ha fatto l'incontro che doveva esserci oggi sul decreto sulle rinnovabili. Effettivamente non ne siamo a conoscenza, insomma, non ne sappiamo nulla. Anche noi sapevamo che era in agenda oggi. E restiamo in tema di energia, ma passiamo innanzitutto a parlare di petrolio, poi allargheremo il discorso lievemente più in generale alle materie prime. I dati ve li abbiamo già forniti. Oggi il petrolio ha fatto segnare un lieve calo sulle notizie che la Libia, il governo di Tripoli, non avrebbe intenzione, avrebbe intenzione di fermare l'offensiva. Ma in questi giorni naturalmente hanno pesato parecchie cose, tra cui non ultima naturalmente la crisi nello Yemen. Come si diceva poco fa, attraverso lo stretto tra lo Yemen e il Djibouti passano circa 3 milioni di barili al giorno tramite le petroliere. Saluto il professor Giorgio Barba Navaretti, docente di economia internazionale all'Università Statale di Milano, editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera, professore. Buonasera a voi. Allora, io partirei naturalmente dal petrolio e poi magari torniamo anche sulle materie prime alimentari, perché la crisi giapponese, in tutto il suo dramma naturalmente, con tutto il dolore per la perdita di vite umane, ha avuto un impatto positivo in realtà su quella corsa dei prezzi degli alimentari che abbiamo visto, delle materie prime alimentari che abbiamo visto negli ultimi mesi. Allora, fermiamoci un attimo sul petrolio. C'è la Libia, sulla quale la situazione mi sembra decisamente confusa al momento, perché non si sa che cosa succederà. Per il momento il mercato sembra aver creduto al fatto che Tripoli fermerà l'offensiva. E poi c'è la questione dello Yemen, naturalmente. Sì, lo Yemen, il Bahrain, c'è un sacco di, sono un mucchio di tensioni. Direi che parlarla, definirla confusa, è effettivamente una definizione in sé ottimistica, nel senso che veramente non si sa cosa possa succedere. Però ci sono anche dei paradossi, nel senso che per esempio nei giorni scorsi il prezzo del petrolio, prima diciamo del picco della crisi libica, era anche calato leggermente, e questo è in parte collegato al fatto che con il terremoto in Giappone e con il rimpatrio dei capitali giapponesi, che ha fatto a sua volta salire lo yen, in qualche modo si è usciti, molti operatori sono usciti da operazioni più rischiose, come il commercio delle commodities, come i future delle commodities, che in qualche modo avevano un effetto sui prezzi. Cioè, paradossalmente, il fatto che durante la crisi giapponese sia in parte leggermente si sia ridotte le tensioni sui prezzi delle commodities è un indice di quanto questi prezzi fossero in parte gonfiati da speculazioni, siano in parte gonfiati da speculazioni. Quindi, in sostanza, lei dice la crisi giapponese ha avuto l'effetto di ridurre la speculazione. Esattamente, perché come sempre quando aumenta la volatilità sui mercati, quindi quando aumenta la percezione del rischio, i mercati si riorientano verso attività più sicure, e il fatto che siano ridotti i prezzi delle commodities vuol dire che in qualche modo questo è un mercato che è percepito oggi molto rischioso. Allora, professore, mi soffermerei ancora sull'energia e poi veniamo alla questione delle materie prime alimentari. Il fatto che ci siano, e qua parliamo del medio-lungo termine, suppongo, il fatto che iniziano ad esserci delle tensioni così forti dal lato dell'energia nucleare, la Germania che decide di chiudere di botto 7 impianti per quanto vecchi, molti paesi che iniziano a rivedere le loro politiche, la Svizzera ha bloccato 3 impianti, tanto per fare un esempio, l'Italia avvia una pausa di riflessione, per così dire, e la Russia che inizia a ragionare anche lei sulla sicurezza dei suoi impianti. Ecco, tutto questo nel medio-lungo termine o anche nel breve porterà, secondo lei, tensioni sul mercato del greggio e del gas? Beh, chiaramente vuol dire sostituire il nucleare con delle fonti energetiche più tradizionali, e quindi chiaramente questo sicuramente sarà l'effetto. Adesso bisognerà poi stimare gli effetti quantitativi, cioè quanto è, diciamo, il fabbisogno energetico che deriva dalla chiusura delle centrali o dal fatto che queste centrali non vengano costruite. C'è un altro effetto di questo genere che si vede già, per esempio quello sul carbone. Anche il prezzo del carbone è aumentato moltissimo, e questo è sicuramente dovuto a un aumento del fabbisogno energetico in alternativa al nucleare. Questo c'è stato un picco immediatamente dopo la crisi, dopo il terremoto giapponese. Ecco, tra l'altro, da fonti locali, social network, eccetera, eccetera, arrivano notizie che ci sono proteste anche in Siria, quindi diciamo è tutta l'area che come si dice con una frase fatta, in fiamme. Verrei alla questione delle materie prime alimentari. Allora, lei ci diceva che è stata ritirata sicuramente un po' di speculazione, quindi qualche segnale di questo tipo c'è. Però c'è anche una ragione, per così dire, di mercato vera e propria, non strutturale, ma di mercato, che dipende dal fatto che il Giappone è uno dei maggiori importatori di cereali del pianeta, forse il primo, professore. Sì, il Giappone è certamente un grande importatore di cereali e sicuramente questo, diciamo, la situazione attuale in qualche modo anche qui dovrebbe leggermente ridurre le tensioni sulla domanda, però io non penso che poi il Giappone, diciamo che l'effetto del terremoto sia tale per cui la domanda di cereali importati da parte dei giapponesi nel medio, in breve anche medio periodo si riduca sostanzialmente, quindi sicuramente i livelli di consumo poi riprenderanno ad essere pari a quelli che erano in precedenza, quindi direi che qui l'effetto sarà più limitato, mentre invece l'effetto sulla domanda la domanda energetica invece sarà un effetto di più lungo periodo e più strutturale, proprio dovuto alla chiusura delle centrali, ecco. Le centrali atomiche. Sì, tra l'altro ieri abbiamo visto quelli che forse possiamo giudicare rimbalzi sui mercati delle materie prime alimentari, un più 8% a Parigi per il frumento, più 7% a Chicago, mais più 5%, riso grezzo e semi di soia più 4%, vabbè, queste sono cose di breve periodo, professore, no? Di giornata, insomma, un rimbalzo, a Parigi era ai minimi da 6 mesi del resto, no? Beh, assolutamente, no? C'è una volatilità sui mercati in questo momento che è rafforzata dall'incertezza e quindi bisogna un po' cercare di capire quali saranno i trend strutturali, come giustamente fate voi, e questo non è semplice. Certamente c'è una corsa ovunque a cercare di prendere delle posizioni importanti su qualunque tipo di materie prime. A me per esempio colpisce moltissimo la storia dei cinesi che hanno proposto a Panama di costruire un secondo canale in qualche modo per poter avere un secondo canale che sarà un canale ferroviario, naturalmente per poter avere accesso alle risorse carbonifere di questi paesi e di quella della regione e dell'area, cioè c'è un posizionamento strategico da parte di molti paesi, soprattutto della Cina, che proprio ci dà un'indicazione di quanto sia strutturale il problema che abbiamo oggi di fronte e non sia in realtà un problema soltanto di speculazione di breve periodo, anche se, come ho detto prima, la speculazione è molto importante. Sì, mi ricordo che riferiva qualche settimana fa in questa stessa trasmissione della crescita del prezzo del rame è dovuta in realtà non tanto alla speculazione quanto al fatto che i cinesi stanno di fatto rifacendo la rete elettrica del paese. E quindi in sostanza chiaramente questo ha un impatto sul prezzo del rame. Ultima domanda, questa che forse interessa di più quella che è la nostra industria, l'industria italiana, queste tensioni sulle materie prime si fanno sentire anche su altre materie prime di diverso tipo, che non sono metalli, che non sono energia, che non sono alimentari, ma sono per esempio il cotone e la lana. Sì, certamente, sono anche queste sono materie prime importanti ed effettivamente, diciamo, le tensioni sui prezzi tendono ad estendersi. Noi, devo dire, abbiamo la grande fortuna che l'euro, da questo punto di vista, l'euro si sta apprezzando, quindi questo compensa l'aumento di costo di molte materie prime che invece sono prezzate in dollari. Diciamo, l'euro forte da questo punto di vista ci aiuta un po'. Grazie al professor Giorgio Barba Navaretti per essere stato con noi. Buonasera. Grazie a voi, buonasera. Professor Giorgio Barba Navaretti, docente di economia internazionale all'Università Statale di Milano, editorialista del Sole 24 Ore. Ci ritroviamo tra un attimo per parlare naturalmente dei mercati. Vi posso già dire che la chiusura è positiva, più 0,27% sul FTSE MIB, più 0,41% sul FTSE All Share. Naturalmente domina tutto Parmalat, più 4%. A tra poco. minuti e 28 secondi, ci chiedete del decreto sulle rinnovabili, lo accennavamo in apertura, anche noi eravamo convinti che ci dovesse essere oggi un incontro, in realtà evidentemente non c'è stato perché non abbiamo risultanze, e ci chiedete anche di Meridiana. Allora, oggi è arrivata una nota della compagnia, dice: nessun accordo è stato raggiunto tra l'Italia e Meridiana Fly per un'eventuale fusione tra le due compagnie aeree. Ci sono contatti tra gli azionisti, ma non vi è alcuna certezza, si scrive ancora nel comunicato, che possa essere raggiunto un accordo. La borsa. Paolo Paronetto, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, da quel che vedo si vede già qualche effetto delle dichiarazioni che sono arrivate dalla Federal Reserve poco fa e che vi abbiamo riferito, ossia che i risultati degli stress test sulle 19 principali banche sono positivi e quindi alcune banche possono alzare i dividendi e JP Morgan Chase li ha quintuplicati, passeranno da 5 a 25 centesimi per azione. Va bene dunque l'America, un più 1% sul Dow Jones, un mezzo punto percentuale sul Nasdaq, che bene oggi ha fatto complessivamente anche l'Europa, Paolo, no? Sì, esattamente, gli istituti europei sono riusciti a chiudere la seconda seduta consecutiva di rialzo dopo le flessioni della prima parte della settimana dovute naturalmente alla tragedia giapponese, anche se bisogna dire che sul finale gli investitori anche in chiusura di settimana hanno deciso di passare in parte ai realizzi e infatti la chiusura è lontana dai massimi toccati durante la giornata. Gli stini hanno chiuso con rialzi di circa Milano sullo 0,3, le altre borse europee più o meno in linea, mentre nel durante erano arrivati guadagni anche oltre un punto percentuale. Allora, parleremo di Parmalat tra poco nella seconda parte del programma, intanto ti chiediamo di accennarci qualcosa, un più 4%, una vicenda che ormai naturalmente incrocia la politica e quella parola che molti aborrono, che è politica industriale, però insomma fatto sta che ci sono anche delle questioni societarie ben forti in ballo e questo è il motivo per il quale sale così tanto, no? Esattamente, anche oggi un deciso rialzo, il titolo è stato il migliore tra le blue chip, ha fatto più 4%, ricordiamo che oggi è l'ultimo giorno per il deposito delle liste di candidati per il rinnovo del CDA, al momento l'unica lista ufficialmente depositata è quella di Intesa San Paolo, ovviamente siamo in attesa delle altre, mentre come ricordavi tu oggi sul tema hanno preso posizione moltissimi personaggi a partire dai esponenti sia del mondo politico che di quello economico. Di ieri sera aveva la notizia appunto che i francesi di Lactalis sono entrati nel capitale con l'11% e con un'opzione per salire al 14% e quindi sono di fatto al momento i primi azionisti della società. Bene, oggi anche Fiat Industrial, anzi tra le migliori, ma prima voglio sapere di Fondiaria Sai, più 2,84%. Una giornata un po' a due facce per la Galassia Ligresti, tutti i titoli e quindi oltre a Fondiaria Sai anche Milano Assicurazioni e Premafin avevano vissuto una mattinata positiva sulle indiscrezioni di un possibile ritorno di fiamma da parte di Groupama e quindi di un piano B che sarebbe stato presentato dalla compagnia francese per riuscire a entrare nel riassetto finanziario della Galassia Ligresti superando di fatto l'ostacolo posto dalla Consob che aveva imposto un'OPA al primo progetto presentato da Groupama, indiscrezioni smentite nel pomeriggio dalla compagnia francese che ha detto che non c'è nessuna nuova proposta e dopo questa smentita i destini delle società del gruppo hanno preso strade diverse, Fonsai ha addirittura accelerato chiudendo a 2,8% mentre Premafin e Milano Assicurazioni hanno chiuso in calo. Quindi ancora francesi e italiani, veniamo a Fiat Industrial. Anche in questo caso si tratta di indiscrezioni che poi hanno trovato smentite ma a cui il mercato sembra continuare a credere, si parla già da ieri con le indiscrezioni su possibili trattative tra Fiat Industrial e Daimler per un'aggregazione delle attività nel settore dei camion, già ieri i titoli ne avevano beneficiato chiudendo in rialzo, oggi hanno fatto più 2,78% anche se sono arrivate le smentite sia da parte di Daimler che da parte dell'amministratore delegato e di Fiat Sergio Marchionni, comunque il titolo rimane sotto i riflettori e queste voci di operazioni straordinarie aiutano anche la speculazione. Allora Paolo, è bastato un taglio di rating di UBS per far scendere l'automatica del 5,42%, è quasi il 5,5%. Sì, taglio di UBS e anche le motivazioni di questo taglio, perché gli analisti hanno sottolineato che i titoli sono più cari rispetto ai concorrenti e quindi trattano il momento su multipli superiori a quelli del settore, multipli che secondo gli analisti non sono giustificati dai ritorni che offre la società, e soprattutto fin quando non sarà digerita la fusione tra l'automatica e GTEC, che secondo gli analisti appunto non è ancora stata completata in tutti i suoi aspetti. Quindi UBS ha tagliato il giudizio sull'automatica a neutral dal precedente buy, quindi ha smesso di consigliare di acquistare i titoli, ed evidentemente alcuni investitori che avevano comprato quando le quotazioni erano più basse hanno deciso di passare all'incasso realizzando i profitti. Giù anche STM. STM è stato molto spesso tra i titoli che più si sono mossi in questa settimana, ovviamente risentendo delle implicazioni della tragedia giapponese sul settore dell'alta tecnologia, in cui ovviamente ST Microelectronics opera. Ieri i titoli avevano tentato di recuperare terreno, ma oggi sono tornate le vendite. Naturalmente i timori sono quelli su possibili tagli e dei target annunciati al mercato dalla società. Mercoledì un portavoce aveva ammesso l'esistenza di rischi sui ricavi del primo e del secondo semestre. Al momento non c'è stato alcun cambiamento delle previsioni annunciate, ma il mercato ovviamente è preoccupato. Grazie a Paolo Paronetto di Radio Cor Il Sole 24 Ore. Vi daremo in dettaglio come sono andati gli altri titoli subito dopo la viabilità. minuti e 30 secondi, non male la battuta di Luca, e ci scrive: beh, se JP Morgan ha oltre il 50% del rame mondiale, non credo che il rifacimento della rete elettrica cinese c'entri molto con la quotazione. Ora non sappiamo se JP Morgan abbia oltre il 50% del rame mondiale, comunque la riflessione naturalmente su quanto si gonfino i prezzi delle materie prime ci sta. A chi ci chiede di parlare di più degli imprenditori, come sapete in questa trasmissione lo facciamo costantemente, parleremo di imprese nella seconda parte della trasmissione. Nella fattispecie parleremo di Parmalat, parleremo di italianità, parleremo anche a questo punto della tenuta delle imprese italiane. Allora, prima di passare al prossimo argomento, in breve come sono andati gli altri titoli: oltre 2 punti percentuali di guadagno per Tod's, Pirelli e Finmeccanica, e poco meno per Saipem, 1,5 punti su Autogrill e Ansaldo, 1,4 su Bibanca, Buzzi Unicem in guadagno dell'1,28 e dell'1,26 Campari, 1 punto percentuale di guadagno per Impregilo, Exor, Mediolanum e Telecom Italia, Enel Green Power più 0,88%, Diasorin lo 0,83%, Luxottica lo 0,8%, 0,6 per Atlantia e Prismian, 0,5 punto percentuale per Snam Rete Gas, più 0,4 per Unicredit, Azimut più 0,35, poco sopra la parità Bulgari, la Popolare di Milano, Mediobanca e Terna, Mediaset e Tenaris, in perfetta parità Intesa San Paolo e Banco Popolare, giù Generali dello 0,27, Eni dello 0,30, Fiat dello 0,33, Enel di 0,5 punto, A2A di 0,5 punto anche in questo caso, e il Monte dei Paschi dell'1,12% di ST Microelectronics e l'Automatica, abbiamo già detto. Euro che quota 1,41,72 contro dollaro. E adesso parliamo del forum di Confcommercio. Oggi e domani a Villa d'Este la 12ª edizione del Forum di Cernobbio organizzato da Confcommercio. Ci colleghiamo subito con la nostra inviata Paola Nania. Paola, buonasera. Buonasera a voi. Allora, sono stati presentati dei dati, ci sembra di capire, piuttosto interessanti e che ci possono aiutare a riflettere sulla perdita di potere d'acquisto. Sì, esatto. Questa mattina c'è stata la conferenza stampa di apertura dei 2 giorni di cui tu parlavi, conferenza stampa in cui è stata presentata questa ricerca. L'ha presentata sia il presidente di Confcommercio Sangalli, sia il direttore dell'ufficio studi di Confcommercio, che è Mariano Bella. Il dato interessante è una ricerca che si concentra su i consumi in modo particolare, il rapporto che esiste tra i consumi e l'economia italiana e la produzione di ricchezza, quindi tra consumi e PIL. Il primo dato, quello quello che probabilmente ha maggiormente colpito è che i consumi non progrediscono, anzi dal 2007 a oggi ciascun italiano dispone per i consumi mediamente, secondo il calcolo appunto di Confcommercio, di 570 euro all'anno in meno. Quindi secondo Confcommercio sostanzialmente questi consumi particolarmente in affanno influiscono sul PIL. Se i consumi non riprenderanno, dice Confcommercio, il PIL non riuscirà mai a salire più di un punto percentuale, perché secondo Confcommercio influiscono sul PIL molto più i consumi interni che non per esempio l'export. Questo è un primo dato che è emerso dalla ricerca di Confcommercio. Un altro dato che colpisce un focus sulla disoccupazione, che ovviamente influisce negativamente sui consumi. In modo particolare Confcommercio ha calcolato che nel 2009 la condizione di 640.000 famiglie con il capofamiglia disoccupato ha pesato per un terzo nella riduzione complessiva dei consumi. Quindi la disoccupazione, soprattutto la disoccupazione al sud, la disoccupazione giovanile influisce sulla perdita di potere d'acquisto. Sì, che è abbastanza sottinteso tutto sommato, no Paola? Sì, assolutamente, sono dati comunque che colpiscono soprattutto perché servono a Confcommercio per chiedere degli interventi al governo. Tra l'altro, bene. Simone, c'è stato un focus anche su per esempio l'andamento dell'inflazione all'interno di questa ricerca, inflazione che secondo Confcommercio salirà nel 2011 più o meno del 2,7%, però è una tensione al rialzo che dovrebbe rientrare già nel 2012. Bene, iniziamo a sentire alcune delle voci che hai raccolto, Paola, nel corso di questa giornata. Intanto ti ringraziamo e ti salutiamo partendo dal responsabile dell'ufficio studi di Confcommercio, Mariano Bella. Sentiamo la tua intervista. Ci siamo posti questa domanda: perché il paese non cresce se il commercio mondiale è andato molto bene negli ultimi 20 anni, soprattutto negli ultimi 10, poi al di là del 2009 che è un periodo di crisi, e quindi forse se il paese non cresce è perché le esportazioni non sono sufficienti. E quindi abbiamo valutato quanto valgono i consumi in termini di prodotto lordo, in termini di stimolo alla produzione nazionale e quindi del PIL, e emerge un dato che in realtà insomma era già noto, ma che abbiamo voluto riconsiderare e rilanciare. Ecco, l'80% dei consumi vanno a stimolare produzione nazionale e soltanto il 20% di questi consumi vanno all'estero, quindi i consumi, c'è poco da fare, rimangono un elemento centralissimo per sviluppare prodotto lordo. Per sviluppare prodotto lordo vuol dire anche per fare sentire alle nostre imprese, alle imprese italiane, che c'è adeguata tensione di domanda per fare piani di investimento, per fare nuova occupazione. Avete anche calcolato il rapporto tra consumi e disoccupazione, che è un rapporto evidente, avete anche proprio dato una cifra. Sì, una cifra approssimativa, ecco, per il 2009 un terzo della riduzione dei consumi, ecco, si può imputare al fatto che 650.000 famiglie avevano il capofamiglia disoccupato, che aveva perso il lavoro. Quindi questa è una stima, quanto si vuole approssimativa, ma abbastanza significativa, del fatto che c'è poco da fare: senza il riassorbimento della disoccupazione difficilmente potremo osservare dei tassi di crescita adeguati. Infine, per quanto riguarda l'inflazione, prevedete una crescita per quest'anno, poi l'andamento successivo qual è? Quale dovrebbe essere? Dunque, le tensioni internazionali sulle materie prime dovrebbero rientrare nel giro di 12 mesi. Diciamo, è una previsione, è una valutazione verosimile, possibile, ma in realtà nessuno sa come può andare a finire sia la dinamica delle materie prime alimentari e non alimentari, e soprattutto le questioni che riguardano l'energia. Quindi oggi siamo già al 4% come inflazione italiana, riteniamo che le tensioni internazionali produrranno una crescita che a fine anno sarà del 3%, quindi in media d'anno 2,7%, ma dopo si dovrebbe rientrare dentro gli obiettivi che la Banca Centrale Europea definisce stabilità dei prezzi, cioè sotto il 2%. Così dunque Mariano Bella, responsabile dell'ufficio studi di Confcommercio, intervistato dalla nostra Paola Nania. Ci chiedete di STM, se non abbiamo dato qual è stata la variazione di STM nella giornata di oggi ce ne scusiamo. Comunque meno 2,63%, il secondo peggior titolo sul FTSE MIB a 8,31 euro. C'è una breve pausa, non una breve pausa, in realtà la pausa per il giornale radio con molti aggiornamenti importanti. Ci ritroviamo tra un attimo, sentiremo tra l'altro anche l'intervista al presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, e poi toccheremo il tema di Parmalat. Le 18:07 minuti e 54 secondi, bentornati da Simone Spezia a questa puntata di venerdì di Focus Economia. Vi ricordo come sono andati i mercati prima di proseguire con quel che ci è arrivato la nostra inviata a Cernobbio per il forum di Confcommercio. FTSE All Share in rialzo dello 0,39%, più 0,27% per il FTSE MIB, titolo migliore Parmalat, più 4%. Per tutte quelle vicende societarie delle quali si è parlato oggi sui giornali e si continua a parlare e delle quali parleremo tra poco. Dunque veniamo alle voci raccolte dalla nostra inviata a Cernobbio, Paola Nania. Vi abbiamo fornito qualche dato nella prima parte del programma che è stato diffuso da Confcommercio sull'andamento dei consumi. Consumi meno 570 euro per ogni italiano a partire dal 2007. Dunque l'intervista al presidente di Confcommercio Sangalli. Prima della recessione, dal 2001 al 2007, i consumi pro capite sono rimasti sostanzialmente fermi. Nella fase di crisi 2008-2009 i consumi pro capite sono scesi del 3,5%. Allora, per accelerare ed irrobustire la crescita bisogna rilanciare i consumi. Aggiungo un'altra cosa, che la domanda interna per consumi e per investimenti contribuisce alla formazione del PIL per l'80% e che i consumi delle famiglie si rivolgono per l'80% alla produzione nazionale. Quindi più consumi significa più produzione. Qual è la nostra ricetta? Ecco, la nostra ricetta sta in più produttività nel settore dei servizi con una buona politica a favore dei servizi, più produttività complessiva del paese con delle buone riforme, a cominciare dall'incrocio virtuoso tra federalismo fiscale e riforma fiscale. L'una e l'altra contribuiscono a creare più crescita a partire dal mezzogiorno e più occupazione, soprattutto nei confronti dei giovani, dei quali quasi il 30% è senza lavoro. Come non dovrebbe essere la riforma fiscale? Cosa non dovrebbe contenere? Ma guardi, la riforma fiscale noi la leggiamo così, una riforma fiscale che, incrociandosi con la costruzione del federalismo fiscale, debba raggiungere due obiettivi: è quello della semplificazione, quindi di una eliminazione la più larga possibile del peso burocratico, e quella di arrivare ad una riduzione della pressione fiscale. E come ho detto in conferenza stampa, noi ci rendiamo perfettamente conto che il processo non è facile, però noi diciamo l'importante è metterlo in moto, l'importante è stabilire alcune tappe, alcuni modi, tempi di avanzamento per dare, rinnovare, infondere un maggiore clima di fiducia nelle imprese e nel lavoro, perché questo contribuisce certamente in maniera responsabile alla crescita. Una patrimoniale? Beh, noi abbiamo detto che siamo contro a qualsiasi patrimoniale perché le riteniamo inefficaci ed inique. Così dunque il presidente della Confcommercio, ci scrivete giustamente, in parte giustamente, per far ripartire i consumi basterebbe abbassare i prezzi. Era presente al forum di Cernobbio anche il segretario della CGIL, Susanna Camusso. Sentiamola proprio sulla questione dei redditi. Anche questo è un dato che deriva dal fatto che non si è fatta una politica di contrasto alla crisi, di un'inflazione che ha ripreso e di una disattenzione in particolare alle risorse dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. A ciò si potrebbe porre rimedio, basterebbe fare delle scelte di redistribuzione, di invece di orientare un'idea di riforma fiscale aumentando la tassazione dei consumi, bisognerebbe aumentare la tassazione della rendita e ridistribuire verso chi produce. E veniamo al tema di Parmalat. Che cosa è successo? Che il gruppo francese Lactalis ha dichiarato ieri sera di avere il controllo dell'11,4% del capitale, il 7,3% in modo diretto e il rimanente 4,1% attraverso un equity swap stipulato con la francese Société Générale. Tra l'altro con la possibilità di salire ulteriormente fino circa al 15%, di fatto assumere il controllo di Parmalat. Si complica la partita per il controllo perché tra l'altro all'assemblea del prossimo 14 aprile quattro liste si contenderanno gli 11 posti del consiglio di amministrazione, liste che dovrebbero arrivare tra poco, ve ne informeremo. Oltre all'Actalis, quella dei tre fondi esteri Skagen, McKenzie e Zenith con il 15,3% del capitale, che vogliono sostituire l'attuale amministratore delegato Enrico Bondi, ma si sono detti favorevoli all'italianità. E poi c'è quella di Intesa San Paolo con capolista lo stesso Bondi e poi quella di Assogestioni. Il tema naturalmente sta diventando l'italianità di Parmalat. Devo dire la verità, a vedere la notizia è stata appena battuta dalle agenzie, a chi tocca non si ingrugni, si dice da qualche parte. Perché? Perché a quanto pare il colosso americano Häagen-Dazs ha informato che vuole comprarsi Yoplait, che è francese, il secondo marchio mondiale dopo Danone nel settore degli yogurt e non solo. E già la politica francese si sta arrabbiando, c'è l'intenzione di far intervenire il fondo sovrano voluto dal presidente Sarkozy dopo la crisi economica globale. Mentre di tutto questo si sta discutendo anche in Italia, ne ha parlato l'ambasciatore francese col ministro dell'economia Giulio Tremonti e con Gianni Letta giusto oggi pomeriggio. Di tutto questo però parleremo dopo la viabilità. Scrive Emanuele, riferendosi alla questione dei consumi, col 30% di disoccupazione chi compra? Beh, insomma, come dar torto anche a questo ragionamento. Saluto i nostri due ospiti. Innanzitutto Fabio Sdogati, economista del Politecnico di Milano. Buonasera Sdogati. Buonasera a voi. E Guido Maurino di Radio Cuore il Sole 24 Ore. Buonasera Guido. Buonasera. Partiamo subito con te per le liste. Sono arrivate queste liste per i consigli di amministrazione? In realtà ancora no, le stiamo attendendo un po' tutti, per il momento è arrivata solo quella di Parmalat, mentre ancora non sono state diffuse né quella di Assogestioni, né quella di Lactalis e nemmeno quella dei tre fondi, i primi a essere usciti allo scoperto su Parmalat. Dovrebbero arrivare comunque nei prossimi minuti, diciamo che c'è un tempo teorico che è quello che indica la mezzanotte di oggi, c'è un tempo pratico che indicava invece le sei, anche se almeno fino a pochi minuti fa ancora non erano state comunicate, non erano state depositate. Allo stato dell'arte, Guido, ci sembra che le intenzioni di Lactalis siano molto chiare, insomma, vogliono salire, sono disposti ad arrivare fino al 29,9% del capitale, cioè non arrivare oltre la soglia di OPA, no? Sì, la loro posizione è abbastanza chiara, oltretutto diciamo che oggi attraverso la Consob... intendo, Guido, che vogliono il controllo. Sì, loro vogliono assolutamente il controllo e vogliono far sì che insomma Parmalat diventi un loro presidio forte sul mercato italiano e poi eventualmente studiare un piano industriale per il suo sviluppo. Oggi poi attraverso le comunicazioni di Consob è stato anche possibile ricostruire un po' come sono entrati nel capitale e ci si è accorti che è stata veramente un'operazione sostanzialmente lampo, perché il 10 marzo hanno sottoscritto un contratto con Société Générale, l'equity swap di cui parlavi prima, che dà loro diritto ad acquistare il 7% del capitale. Nel frattempo il 15 marzo hanno superato la prima soglia rilevante, quella del 2%, il giorno successivo sono saliti oltre il 5% e ieri hanno comunicato quel 7,28% che unito al 7% dell'equity swap li porta a ridosso del 15%. Allora, spiegaci, poi ti salutiamo perché sappiamo che sei sotto proprio per l'arrivo di queste liste che saranno prontamente battute da Radio Cora appena arriveranno. Spiegaci un attimo e brevemente la posizione di questi tre fondi esteri che sono Skagen, McKinsey e Zenith, che hanno il 15,3% del capitale, sono fondi esteri, hanno detto di essere favorevoli all'italianità, ma solo per contrasto all'Actalis, suppongo. Diciamo che anche su di loro si era scatenata un po' la battaglia proprio perché si diceva Parmalat non può finire a tre fondi esteri, chissà cosa faranno, prenderanno la cassa, chissà cosa succederà. A questo punto però dopo l'ingresso di Lactalis, che è chiaramente un operatore francese, un operatore anche concorrente in qualche modo diciamo di Parmalat, stanno cercando di porsi come paladini dell'italianità, dicendo solo con noi Parmalat può veramente restare italiana, solo con noi Parmalat può procedere a quello sviluppo industriale da sola che con i francesi non otterrebbe, quindi diciamo che si è un po' rovesciata la loro posizione da stranieri, oggi provano ad accreditarsi come paladini dell'italianità. Chiaramente anche l'intervento del governo di oggi fa capire che l'esecutivo punterebbe a soluzioni diverse, soluzioni in cui gli italiani contano di più. Grazie a Guido Maurino di Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Vedremo dunque che cosa succederà anche da questo lato dal punto di vista della cronaca, però noi andiamo ad approfondire questo argomento con Fabio Sdogati, l'abbiamo detto, economista del Politecnico di Milano. Allora, vogliamo prendere in esame due o tre cose, due o tre vicende che riguardano i rapporti tra i francesi e gli italiani dal mondo, dal lato della finanza, perché è di questo che si sta parlando in queste ore. Il ministro dell'economia Giulio Tremonti ha annunciato non più tardi di un'ora fa che sta pensando ad un provvedimento sulle imprese strategiche. Tra l'altro Tremonti e Gianni Letta hanno incontrato l'ambasciatore francese per riferirgli proprio questa cosa. Si sta pensando, a quanto pare, proprio a Parmalat e oltretutto ad Edison che è in parte controllata da EDF, Electricité de France, che a quanto pare sembra intenzionata a salire. Abbiamo visto nei giorni scorsi l'operazione che ha portato la vendita di Bulgari, il passaggio di Bulgari a Elvemage. C'è evidentemente qualche problema da questo punto di vista per l'industria italiana, professore, ci spiega qual è? Ma guardi, comincerò con una battutaccia. La globalizzazione è una cosa che o la fai tu o te la fanno. Allora, noi abbiamo vissuto almeno due decenni in una logica e in una cultura veramente inadeguate ai processi di globalizzazione, che è la logica e la cultura del piccolo e bello. Ecco, noi oggi vediamo davanti ai nostri occhi quanto essere piccoli non sia bello. Quando noi andiamo predicando il fatto che le imprese debbono crescere, debbono internazionalizzarsi, debbono lanciare sfide sul piano internazionale, molto spesso, quasi sempre, non veniamo ascoltati. Ora che cosa succede? Che abbiamo delle buone imprese, ovviamente, abbiamo delle imprese appetibili, abbiamo delle imprese che non hanno una cultura della globalizzazione, però, ed ecco allora che lei menzionava imprese importanti per l'Italia, per quello che rappresentano, per il simbolo, per la ricchezza che producono, eccetera. E anche imprese... mi permetta, professore, mi permetta, anche per il settore, insomma, parliamo dell'alimentare e del lusso, certo, che sono, no, due settori. Certamente, sì. Mi riferivo proprio a questo, allora il loro valore simbolico, oltre che un valore economico decisamente importante, perché sono imprese importanti e profittevoli. È chiaro che quando un'impresa non riesce ad internazionalizzarsi per carenza culturale, questo è il problema fondamentale, a questo punto altri te lo fanno loro, cioè ti comprano. La cosa che mi spiace un po' è vedere come per anni in questo paese si è andato cercando l'investimento diretto dall'estero come un modo di uscire dalla crisi, e ora che succede ci si sorprende. Questo non deve sorprendere, questo è il prezzo che noi paghiamo, perdiamo il controllo su imprese che abbiamo costruito con errori, pensiamo a Parmalat, insomma, per carità, e che però rappresentano una capacità imprenditoriale e un patrimonio imprenditoriale importante. Poi sai, i discorsi sulla italianità a me fanno un pochino ridere, non perché li facciano questi fondi che sono stati identificati durante la trasmissione, no, queste sono parole al vento, non esistono più processi produttivi locali. Noi vediamo il comunicato Istat sul commercio estero di oggi, quello che cresce spaventosamente nel commercio estero dell'Italia e di tutti i paesi al mondo è lo scambio internazionale di beni intermedi, cioè i processi produttivi ormai sono frammentati internazionalmente. Certo, certo, professore. Da questo punto di vista direi che ci siamo. Dall'altra parte ci sono le contromisure, perché ci sono delle contromisure di tipo puramente industriale, che sono quelle delle quali ci ha parlato lei, cioè la necessità di crescere, e poi ci sono delle contromisure di tipo politico. Portavo poco fa l'esempio di questa di Häagen-Dazs, che vorrebbe comprarsi Yoplait, che è il secondo marchio mondiale dopo Danone nel settore yogurt e via dicendo. I francesi hanno alzato la testa, hanno detto no, qua deve intervenire il nostro fondo di investimento, il nostro fondo di investimento di Stato, perché non ci sta che gli americani si pappino. Scusate, parliamo di alimentare, quasi un gioco di parole, una cosa di questo genere. Dall'altra parte si pensa a un ragionamento su imprese strategiche. La convince questo tipo di contromisura? Ma innanzitutto è bene inquadrare un attimo questo discorso. I francesi sono il migliore o il peggiore, a seconda dei punti di vista, rappresentante della scuola dei cosiddetti campioni nazionali. Loro da sempre, la scuola francese ritiene di dover fare una politica industriale estremamente aggressiva a protezione dei propri settori che ritiene strategici. Questa linea interpretativa, questa linea politica non è condivisa da tutti, ma questo non è il problema. Allora, cosa deve fare la politica? Ma io sarò molto franco, come sempre. Nel nostro paese non c'è politica economica dal 1998, essenzialmente. Quindi quando si chiuse con il governo che ci traghettò dentro l'euro, da allora noi non facciamo nulla. Cioè, sorprende veramente che il ministro Tremonti un'ora fa abbia posto il problema della salvaguardia, per così dire, delle imprese italiane. Questo è un problema drammatico. Ora io concludo dicendo che forse non ci si deve spingere fino ai livelli francesi, un paese in cui la politica distorce drammaticamente i meccanismi di mercato, e prima o poi questo emergerà sicuramente. Però un'assenza totale di politica per la competitività internazionale, questo è un problema fondamentale. La politica per la competitività internazionale delle imprese. Abbiamo imprese buone le quali lamentano sistematicamente, giorno dopo giorno, professore, l'assenza di un supporto. Questo è il punto. Chiarissimo, chiarissimo, professore. Come sente dalla musica di sottofondo, la trasmissione è finita. Ringraziamo il professor Fabio Sdogati del Politecnico di Milano per essere stato con noi. Grazie a Paolo Corleoni in regia, Barbara Bianchi in redazione, insieme a Mauro Del Corno. Grazie a tutti voi per l'ascolto, da Simone Spezia, e buona serata. Radio 24. La passione si sente.